Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nel porto di Trieste la visita dei viceministri di infrastrutture italiano e ungherese all'Adria Port, il terminal Magiaro, dove sarà costruito un nuovo punto intermodale Ro-Ro. Nell'incontro è stato fatto anche il punto sullo stato di avanzamento del terminal merci ex Aquila. Una macchina efficiente nonostante le carenze di personale, così il presidente del TAR in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in prefettura a Trieste. Aumentano i ricorsi definiti, ma ancora di più quelli depositati. Sei medici rilasciavano certificati per il rinnovo della patente senza mettere ricevuta. In nero un certificato su quattro, per un totale di oltre 15.000 sui 60.000 emessi negli ultimi 5 anni, per un'evasione complessiva di 500.000 euro. Compie un anno il servizio di trasporto e accompagnamento a domicilio all'AUCO, ideato per non lasciare solo chi è più fragile o vive più lontano, nelle 5 frazioni e 8 borgate del paese. Lo sport come strumento di inclusione, nelle parole degli ambasciatori dell'evento Campioni di Vita, la tappa Udine di fronte agli studenti di 3 istituti superiori. 11 eventi per raccontare il protagonista Kader Abdollah e l'Iran di ieri e di oggi, toccando i temi dell'esilio, della memoria e dell'identità. La 31ª edizione del Festival Dedica di Pordenone. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearzi e Francesca Terranova, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 20 febbraio. Oggi era in programma a Trieste la visita dei viceministri alle infrastrutture italiano e ungherese all'Adria Port, dove sarà costruito un nuovo terminal intermodale Ro-Ro. È stato quindi fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. Sorge su un'area grande, 32 ettari, di cui 26 privati e 6 demaniali, l'Adria Port Terminal, il futuro terminal portuale Ro-Ro Multipurpose, da 200 milioni di euro di proprietà ungherese sull'area delle Noghere a Trieste, i cui lavori sono partiti sul fronte delle banchine grazie al PNRR e li sta facendo l'autorità portuale. La parte ungherese attende invece il via libera del Ministero dell'Ambiente sulle autorizzazioni ambientali. Le previsioni parlano di una consegna dell'intera infrastruttura al 2027. Il punto sul cantiere oggi, alla presenza di Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e trasporti, e di Levante Magyar, viceministro ungherese agli affari esteri e al commercio. Il tavolo è iniziato in ritardo e da poco, è a porte chiuse. La stampa potrà incontrare i viceministri al termine dell'incontro. Tra le questioni aperte sicuramente anche la nomina del presidente dell'autorità portuale. In un'intervista al Piccolo questa mattina, Rixi ha detto che prima finirà il giro dei porti, quindi entro metà marzo. Per Trieste, ha detto Rixi, le idee sono abbastanza chiare, ne abbiamo già parlato col presidente Fedriga, da capire quindi se il ticket Guerrieri Torbianelli verrà confermato o meno. Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni su come è andato questo tavolo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina a Trieste c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR. Una macchina efficiente nonostante le carenze di personale, così il presidente del TAR Carlo Modica de Mohac de Grisi valuta il tribunale che dirige all'inaugurazione dell'anno giudiziario amministrativo ospitato in prefettura. Aumentano i ricorsi definiti, ma ancor di più quelli depositati, motivo per cui le pendenze continuano a crescere come accade dal 2020. Ma siamo lontani dai numeri che si registravano fino a 10 anni fa, tant'è che la maggior parte dei ricorsi sono definiti entro un anno, con una media di 236 giorni. Come prevede la legge, una corsia rapida è garantita alla materia degli appalti, che si risolvono in media entro 3 mesi, con tempi in salita rispetto al 2023, anche per il maggior numero delle cause amministrative intentate proprio sugli appalti. Tra le curiosità emerse dalla relazione, il fenomeno dei ricorsi seriali degli insegnanti precari che chiedono il riconoscimento dell'indennità prevista per la carta del docente. Anche il TAR del Friuli Venezia Giulia è afflitto dal problema della carenza di personale, come evidenziato dalla relazione, soprattutto a causa di pensionamenti e dimissioni. Così il presidente Modica de Mohac chiede di potersi avvalere della mobilità regionale esterna, un meccanismo che prevede il trasferimento di dipendenti da altri enti della pubblica amministrazione all'interno del territorio regionale. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: nei giorni scorsi la polizia di Udine ha arrestato in stazione un 20enne pakistano per possesso di 200 grammi di hashish nascosti in un contenitore del latte. L'uomo deve rispondere di detenzione e spaccio e anche di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane infatti, sprovvisto di documenti, aveva tentato di darsi alla fuga. La pena prevista va da 6 mesi a 4 anni di reclusione e la multa da 1.000 a 10.000 euro. Sei medici che operano a Trieste e provincia rilasciavano certificati per il rinnovo della patente senza emettere ricevuta. Lo ha scoperto la compagnia della Guardia di Finanza di Muggia. In nero un certificato su 4, per un totale di oltre 15.000 sui 60.000 emessi negli ultimi 5 anni. L'evasione complessiva ammonta a 500.000 euro. Lampanti per i finanzieri le irregolarità emerse dal confronto fra i redditi dichiarati e il numero dei certificati rilasciati. Per questi medici era sistematica l'omissione dei documenti fiscali per i compensi percepiti, numerose le prestazioni effettuate completamente in nero senza rilascio del previsto documento fiscale. Fermato e sanzionato dalla Polstrada di Trieste il conducente di nazionalità turca di un auto articolato proveniente dalla Slovenia che percorreva in contromano un tratto del raccordo autostradale 13 all'altezza degli svincoli di Fernetti. Dopo aver erroneamente imboccato la direttrice per Trieste, giunto all'altezza della corsia di immissione, l'autista del mezzo pesante aveva deciso di invertire la marcia con una pericolosa manovra, percorrendo la carreggiata est in direzione opposta al senso di marcia per circa un chilometro e ritornando quindi verso l'autoporto utilizzando la corsia di uscita verso il raccordo autostradale 14. Grazie alla tarda ora e all'assenza di traffico non si sono fortunatamente verificati incidenti che avrebbero potuto avere gravi conseguenze. Presentato il bando della Camera di Commercio Venezia Giulia per le spese sostenute dagli esercenti per il personale della vigilanza privata e per l'installazione delle telecamere. Il bando sarà aperto dal 2 marzo fino a esaurimento dei fondi. La Regione ha messo a disposizione 2 milioni di euro. Un contributo fondamentale per poter svolgere l'attività in sicurezza. Bar, ristoranti, alberghi e uffici potranno partecipare al bando della Camera di Commercio Venezia Giulia per far fronte alle spese, anche già sostenute, per il personale della vigilanza sussidiaria o privata e per la videosorveglianza. I fondi arrivano dalla Regione, che nel 2024 ha stanziato oltre 21 milioni di euro per la sicurezza. Gli ultimi 5 milioni sono destinati ai pubblici esercizi delle città capoluogo, ha spiegato l'assessore Roberti, dove si sono intensificati fenomeni di tensione e violenza e per contrastarli il 20 gennaio sono state create anche le zone rosse. Il questore di Trieste, Pietro Ostuni. Noi lo riteniamo un provvedimento utile perché è aumentato il numero delle persone controllate. Tenete conto che stiamo facendo due servizi alto impatto a settimana, abbiamo fatto uno ieri sera, ne facciamo uno oggi pomeriggio, sono servizi interforze, le risposte le stiamo dando, ci sono tantissime attività in itinere, in fiere, quindi noi ci crediamo. Potranno partecipare al bando da 2 milioni di euro, che partirà il 2 marzo, gli esercenti di Trieste e Gorizia. Il contributo per la vigilanza privata va dai 2.000 ai 30.000 euro, mentre per le telecamere, che saranno connesse con le sale operative delle forze dell'ordine, si va dai 1.000 ai 15.000 euro. Il bando resterà aperto fino ad esaurimento dei fondi e comunque fino al 31 dicembre 2025. Il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti. Questo gesto della Regione, che ha capito le necessità e la paura che abbiamo un po' tutti a muoverci, specialmente per chi chiude il negozio alle 7:30 di sera, 8 via con l'incasso, non si è più tranquilli, per cui telecamere sì, vigilante sì, però dopo bisogna cercare di fare qualcosa di più importante anche per cercare di tranquillizzare un po' la popolazione. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio prenderanno il via presso il centro parrocchiale San Giacomo Apostolo a Baivars, in provincia di Udine, i lavori del 10° congresso regionale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, che procederà al rinnovo delle cariche statutarie. Saranno presenti il segretario generale del SAP, Stefano Paoloni, ed i questori di Trieste, Udine e Gorizia, oltre al presidente dell'AMS, Giovanni Roselli. Prosegue in commissione regionale l'esame del disegno di legge sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come ad esempio i pannelli fotovoltaici, l'iniziativa della giunta regionale. Il Friuli Venezia Giulia è tra le prime regioni in Italia a normare sugli impianti ad energia rinnovabile. L'intento del disegno di legge è quello di arginare il proliferare degli impianti che vanno a svantaggio di alcuni territori e aree agricole, cercando di minimizzare il loro impatto sul paesaggio. Oggi, nel corso dell'esame in commissione consiliare, la Giunta ha inserito un emendamento relativo al ritorno economico ai comuni. Mauro Di Berta, della lista Fedriga, presidente. Prevede che a favore dei comuni, nel momento in cui viene realizzato un intervento, un impianto fotovoltaico, almeno il 3% del costo dell'impianto venga riversato in compensazioni ambientali a favore dei comuni, che poi viene tradotto in interventi pubblici sul territorio. Nessuno vuole lo stop al fotovoltaico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma non possiamo rischiare che sia a scapito dell'ambiente, del paesaggio e della storia. È la posizione di Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra, che sottolinea come la norma non faccia riferimento al piano paesaggistico regionale. Il nostro obiettivo è che questi progetti di questi proponenti siano qualitativamente accettabili, che siano godibili anche dal punto di vista della visibilità e che siano efficienti ed efficaci. Le persone devono poter essere sicure che quello che accadrà nel loro territorio non sia un aumento di bruttezza. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 danno 6,5 gradi a Trieste, Gorizia 7, a Udine 6 gradi, a Pordenone 5, Forni di Sopra, Piancavallo e Tolmezzo 3 gradi, Sappada 2,5, a Tarvisio meno 1 grado e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 3 gradi e sul Monte Lussari 1,5 gradi, a Grado e Lignano 4,5 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con temperature massime in aumento, lo zero termico salirà oltre i 2000 metri. Per domani si prevede cielo variabile sulle Alpi con maggiore nuvolosità al mattino, poco nuvoloso altrove, marcata escursione termica in pianura con gelate diffuse al mattino e temperature miti di giorno, lo zero termico intorno ai 2300 metri. Nel pordenonese lo smog è in aumento, attivate quindi misure d'emergenza come i limiti al riscaldamento e il divieto di accensione fuochi a partire da domani 21 febbraio, non solo a Pordenone ma anche in altri 13 comuni: Azzano Decimo, Casarsa, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito e Zoppola. Fino a nuove disposizioni, la temperatura impostata all'interno degli edifici deve essere di massimo 20 gradi, 18 massimo negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali. È vietato accendere camini e stufe a legna o pellet, a meno che non sia questo l'unico sistema di cui è dotato l'edificio. Si ricorda poi che nel ring di Pordenone continuano a essere in vigore fino al 31 marzo i limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti. Il termine di presentazione delle domande al Servizio Civile Universale è stato prorogato alle 14 del 27 febbraio. I posti riservati al Friuli Venezia Giulia sono 683. Il Servizio Civile Universale è rivolto ai giovani fra i 18 e i 28 anni e prevede un impegno di 25 ore settimanali in attività a servizio della comunità presso enti del terzo settore ed enti pubblici. È previsto un riconoscimento economico di 507 euro mensili. Tutte le informazioni sui posti disponibili e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet www.infoserviziocivile.it. Al Policlinico Città di Udine è stato eseguito per la prima volta in Friuli Venezia Giulia l'intervento di miolisi in laparoscopia su un fibroma. La miolisi è una procedura che brucia il fibroma disidratandolo e mandandone in necrosi il tessuto attraverso microonde oppure radiofrequenza. Le microonde si utilizzano su fibromi di grosse dimensioni, superiori ai 5 cm, ma in rapida crescita. La radiofrequenza invece su formazioni più piccole. La sonda viene introdotta dal chirurgo in laparoscopia con un piccolo foro all'altezza dell'ombelico in anestesia totale ed è questa la procedura che è stata realizzata dal dottor Francesco Paolo Mangino, responsabile della ginecologia del Policlinico, insieme alla sua equipe. E ora torniamo a occuparci dello spopolamento in montagna, in particolare all'Auco, dove sono stati presentati dei progetti per rendere più facile la vita in montagna, soprattutto alle persone anziane. Una lista di prenotazioni aperta fino al giorno prima, due volontari, i pulmini del comune. Compie un anno il servizio di trasporto e accompagnamento a domicilio di Lauco, ideato per non lasciare solo chi è più fragile o vive più lontano nelle 5 frazioni e 8 borgate del paese. Al giovedì si accompagnano i residenti dal medico a fare commissioni, a fare la spesa o anche solo a incontrare gli amici per un caffè. Anche la socialità è importante. Io devo andare dal dottore. Io anche in farmacia e poi a fare due robe di spesa. Sono sola. Nampia, siamo tutte sole. E lei anche. Questo è un bellissimo servizio, però i volontari sono pochi. Si continua fino a che la salute ci lascia fare in modo egregio questo lavoro, lo facciamo bene. A Laucom, anche il medico, le poste ci sono ancora. Bisogna fare squadra per compensare le difficoltà dei piccoli comuni della montagna, auto-organizzarsi per creare servizi che avvicinino le persone ad altri servizi. Il trasporto pubblico locale purtroppo va solamente alla mattina alle 7, per cui è troppo presto, oppure lunedì e giovedì alle 10 del mattino bisogna prendere due autobus e arriva a Tolmezzo, oppure uno si arriva a Villa. Però dopo si torna su appena alla mezza facendo un giro di un'ora, è difficile, non va vicino a un supermercato. Stefano Adami, sindaco di Lauco. È un servizio che incentiveremo sempre di più, ci tengo a premettere che non va a sostituire il TPL, è un servizio aggiuntivo che dà un valore aggiunto alle popolazioni e alle genti che vivono in montagna. Lauco, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina a Udine sono stati presentati nuovi finanziamenti regionali alle imprese e cooperative agricole. La finanziaria regionale di cooperazione Finreco ha ricevuto infatti 3 milioni di euro in più per il 2025. È stata aumentata di 3 milioni di euro per il 2025 la disponibilità della finanziaria regionale di cooperazione Finreco, attiva nel sostegno economico di cooperative e, dallo scorso anno, anche di consorzi e singole imprese agricole. L'aumento presentato questa mattina a Udine, nella sede della regione di Via Sabbadini, garantirà 30 milioni di euro di investimenti a garanzia di circa 60 milioni di affidamenti. Spiega il presidente Finreco, Tommaso Fabris. Siamo partiti con il settore frutticolo, con grandi risultati, anche molto vantaggiosi anche per la cooperativa, perché ha raggiunto i suoi obiettivi di raccolta di frutta. Però adesso abbiamo anche aziende zootecniche, sia di produzione di maiali, di latte. Abbiamo garantito anche un'azienda di produzione di latte di capra e stiamo espandendo la nostra operatività in tutti i settori agricoli della regione. Alla base del sistema la corretta valutazione da parte dell'ente erogatore della capacità di restituzione del finanziamento concesso. Se saranno raggiunti gli obiettivi previsti, nei prossimi anni l'ente potrà disporre di altri 9 milioni di euro che attiveranno garanzie per 120 milioni a fronte di 240 milioni di affidamenti bancari. Sono oltre 9.500 le imprese agricole associate all'ente regionale tramite le cooperative territoriali a fronte di oltre 300 soci ordinari e 11 sovventori. Pari a 17 milioni di euro il monte garanzie del 2024, mentre il patrimonio di vigilanza è stato incrementato a oltre 7 milioni di euro. Udine, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Pallanuoto, tra oggi e sabato lo stadio del nuoto di Torino ospiterà le Final Six di Coppa Italia femminile. Alle 18 la formazione di Trieste dell'Orchette affronterà la Briz Nuoto nell'incontro valido per i quarti di finale. Lo sport come strumento di inclusione, nelle parole degli ambasciatori dell'evento Campioni d'Italia. Siamo andati alla tappa di Udine di fronte agli studenti di 3 istituti superiori. Sentiamo. Gli ostacoli che la vita mette di fronte, come superarli, a lezione dai campioni per arrivare al traguardo con passione, determinazione, ma anche rispetto e inclusione. Sul palco del Palamostre di Udine i campioni paralimpici Oksana Corso, Onei Tapia e l'ex azzurro del volley Andrea Lucchetta, in platea 220 studenti degli istituti Volta, Malignani e Bassa Friulana, chiamati a mettersi in gioco attraverso una performance di improvvisazione e giochi interattivi dedicati al tema della protezione. Per Oksana Corso, velocista argento paralimpica a Londra 2012 e Onei Tapia, oro paralimpico nel lancio del disco a Parigi, bisogna credere in se stessi e avere un sogno per superare difficoltà e ostacoli. C'è sempre quella spinta per superare il limite. Non so se fa parte dello sport in generale o dello sport paralimpico, però per noi sicuramente risulta più facile, no? Perché abbiamo ostacoli anche nella vita quotidiana. e quindi in realtà nulla è impossibile. Però poi bisogna rialzarsi, bisogna essere a fare, perché il senso della vita è questo: accettare le alte e basse e darle forma alle nostre emozioni, che sono quelle emozioni che poi si possono fare la differenza. Secondo Andrea Lucchetta, lo sport insegna il rispetto di sé e degli altri, che significa capacità di essere inclusivi nella diversità. Il risultato è importante, porsi degli obiettivi lo è ancora di più. Come raggiungerli? Iniziamo ovviamente a formarli. La formazione di questo percorso passa attraverso l'educazione che i genitori devono dare ai propri figli e poi comunque trasferirli anche a quegli supporti di comunicazione importanti che derivano da chi? Insegnanti di educazione fisica, non è un caso che le scuole attiva kids e junior portino poi lo sport all'interno della scuola primaria, della scuola materna. I nostri insegnanti poi devono anche prendere al volo delle occasioni di questo tipo per avere dei campioni paralimpici che trasferiscono a loro dei percorsi di vita importanti. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli presentato questa mattina a Pordenone, il cartellone degli eventi collaterali del Festival Dedica. 11 eventi per raccontare il protagonista Kader Abdollahi, l'Iran di ieri e di oggi, toccando i temi dell'esilio, della memoria e dell'identità. La 31esima edizione del Festival Dedica di Pordenone, organizzato dall'Associazione Culturale Tesis dal 15 al 22 marzo, celebra lo scrittore iraniano olandese d'adozione con teatro, cinema, musica, mostre, iniziative per le scuole e grandi ospiti. Claudio Cataruzza è curatore di Dedica. Avremo una mostra fotografica interessante con un fotoreporter di primaria grandezza che tra l'altro conosce lo scrittore dai tempi dell'università e quindi si rincontreranno qui a Pordenone, e che è Manusher Degati, vincitore per due volte il World Press Photo, e poi avremo un fantastico concerto finale con Ramin Barami. Ma vorrei sottolineare anche il ritorno di Gabriele Vacis, che è stato il primo protagonista insieme al suo laboratorio Teatro Settimo della nostra rassegna nel lontano 1995, e poi il ritorno di Giuseppe Cederna, che è sempre un amico nostro. Non mancheranno presentazioni di libri, un incontro di geopolitica con Strazzari e Riva. In programma anche l'anteprima italiana della nuova edizione del romanzo Il Messaggero. Inaugurazione sabato 15 marzo alle 16.30 al Teatro Verdi, con la consegna all'autore del sigillo della città. Il festival contribuisce alla candidatura di Pordenone a capitale italiana della cultura 2027. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentazione del libro Come si uccide un gentiluomo, edito da Neri Pozza. È il 19esimo romanzo dello scrittore friulano Tullio Avoledo. La presentazione sarà curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti nell'abbazia di Rosazzo a Manzano questa sera alle 18. Si tratta di un libro noir che vede protagonista un avvocato e la battaglia contro una speculazione edilizia che rischia di cambiare il corso dei fiumi. Dottor Jekyll e il suo alter ego Mr. Hyde al Teatro Rossetti di Trieste da stasera fino a domenica. I celebri personaggi ideati 139 anni fa dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson per il suo romanzo bestseller. Sul palco Sergio Rubini, che è anche regista e autore dell'adattamento, con lui Daniele Russo. La prima stasera alle 20.30, poi in replica fino a domenica in sala assicurazioni generali. Al Teatro La Contrada di Trieste, prima nazionale di Pazza, uno spettacolo drammatico ma anche a tratti divertente che esplora i segreti di una famiglia borghese e il dramma della violenza sulle donne. Questa sera alle 20.30 e poi in replica fino a domenica. Lo spettacolo, scritto da Tom Topor, andò in scena per la prima volta a Broadway nel 1980, per poi essere riproposto al cinema nell'87 con Barbara Streisand. In questa nuova rappresentazione della Contrada, diretta da Fabrizio Coniglio, salirà sul palco Vanessa Gravina nel ruolo della protagonista. Il celebre psicanalista Massimo Recalcati tiene due seminari aperti al pubblico all'Università di Udine sulle radici bibliche della psicanalisi, oggi alle 15, domani mattina alle 10 nell'aula Strassoldo di via Tomadini 30. Alle 18, nell'antico Caffè San Marco di Trieste, Elena Venuti presenta il suo libro Biopsicomitologia, la mitologia greca in chiave psicologica e spirituale. Daniela Galeazzi e Giuseppina Minchella presentano il romanzo Le verità pericolose, un ebreo fascista tra guerra e amori inquieti, in dialogo con Mario Brandolin e Martina Del Piccolo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 18. Presentazione del secondo numero della rivista Quale Storia, che si occupa del dopo comunismo, politiche e culture della memoria nell'Europa centrale e balcanica, a cura di Costanza Calabretta, ricercatrice dell'Università di Bolzano, al Circolo della Stampa di Trieste alle 18. Femmina Brani di carne per una rivoluzione dei corpi terrestri. Questo è il titolo dello spettacolo che unisce parole e musica per raccontare il corpo femminile come simbolo di ribellione e resistenza. Alle 20.45 nel Museo Civico delle Carrozze d'epoca di Codroipo con Angelo Floramo e Andrea Bitai, cantante e compositrice ungherese. Un libro per raccontare la comunità nata intorno alle officine Bertoli, fabbrica di carrelli industriali nata 100 anni fa. Lo hanno scritto Liliana Carnielutti e Maria Grazia Santoro. La presentazione alle 18 al Teatro di Paderno in via Piemonte a Udine. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio che è stato redatto e condotto da Francesca Terranova e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Mauro Cumì. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.